Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Salve a tutti da Annarita D'Ambrosio e da Valeria De Rosa. Allora, eccoci qui per un nuovo programma di Radio 24, Valeria, finalmente dedicato ai viaggi. Ci sono stati in passato già programmi dedicati a questo, ma il nostro è diverso. Vogliamo innanzitutto spiegare perché? Perché noi non siamo esperte viaggiatrici, siamo solo delle appassionate viaggiatrici e viaggiamo con le nostre famiglie, un po' strane, e anche noi stesse, in fondo. Del resto tu non ami volare. Io non amo volare, ma viaggio. Ecco, raccontiamo com'è nato questo viaggio, com'è nata l'idea di questo viaggio. È nata da Valeria, lo dobbiamo dire, dobbiamo attribuire la paternità di questo programma, perché Valeria è stata una grande viaggiatrice. Poi è nato il piccolo mostro e i viaggi si sono un po' fermati, anche se poi con il tempo abbiamo recuperato, stiamo cercando di portare anche il bambino con noi in giro, e questo ovviamente fa sì che dobbiamo aggiornarci e dobbiamo anche capire dove possiamo portarlo per non avere grandi problemi. Mentre la sottoscritta, che ha una grande paura, come dicevamo, di volare, ha girato però il mondo e continua a farlo. E allora l'idea è nata dal fatto che io vorrei tanto raccontare a Valeria, e purtroppo con i nostri orari di lavoro che non sempre coincidono diventa difficile, i miei viaggi, e Valeria vuole raccontare a me i suoi. Quindi io sono molto curiosa di sapere dove andremo in queste puntate di questo nostro nuovo appuntamento. E dato che noi siamo giornaliste di Giornale Radio, siamo molto attaccate ai titoli, e i titoli saranno sempre il nostro inizio. Allora cominciamo con i titoli. Fuori confine, vi portiamo ad Atene, la crisi non ha spento i colori e il calore della capitale ellenica. Nello stivale andiamo a Matera in attesa del 2019, difficile da raggiungere ma non impossibile. Nord a chilometro quasi zero, oasi di Sant'Alessio a due passi da Pavia. Sud a chilometro quasi zero, Castellammare di Stabia, dividersi tra il mare, la tavola e gli scavi. E allora, ordinate e precise come sempre siamo, seguiamo la nostra scaletta e cominciamo da Atene. Devo premettere che mi sento un po' di parte, perché è vero che non ho legami di sangue con questa capitale, ma da quando i greci stanno attraversando questa crisi e da quando sono andata a vedere con i miei occhi come la stanno vivendo, sono rimasta letteralmente affascinata, Annarita, perché Atene non è una città bella nel senso più classico del termine, ma è sicuramente una città molto coinvolgente, e come sanno essere solo quelle città che sono vicine al mare, che hanno una grandissima storia e che sono state attraversate da culture molto diverse tra loro. Ad Atene ho incontrato Letizia. Di dove sei e perché sei finita ad Atene? Io sono di Roma, sono finita ad Atene un po' per caso, diciamo. Mi sono trasferita qui un anno e mezzo fa, più o meno. Mi sono trasferita per amore, diciamo anche un po' per caso, perché il tutto è avvenuto abbastanza rapidamente. E in poco tempo sono diventata cittadina di questa bellissima città. Insieme a Giovanna, che è un'altra italiana emigrata ad Atene, avete pensato a una iniziativa che potrebbe essere e che può essere molto stimolante per gli italiani che arrivano qui. Esattamente, noi dopo numerose chiacchierate insieme a Giovanna Monti, che è l'ideatrice insieme a me di questo sito atenesipercaso.com, entusiaste della nostra esperienza di vita in questa città, abbiamo deciso di condividere con i nostri concittadini italiani i piccoli e grandi segreti che abbiamo scoperto, e abbiamo deciso di mettere su questo blog dedicato agli italiani, quindi scritto solo in italiano, in modo da condividere e poter anche dare dei consigli utili per visitare questa città e fare in modo che non sia solo un passaggio per raggiungere le isole, ma diventi proprio un luogo dove poter programmare una vacanza di 2-3 giorni e godere e scoprire quello che Atene può offrire. Allora, al di là dell'Acropoli, che è sicuramente il punto di attrattività maggiore per Atene, che è un posto magico, fondamentale comunque a prescindere, ci saranno degli spunti che adesso tu ci regalerai per chi vuole, chi vorrà nei prossimi mesi venire a visitare Atene.

è il racconto di Letizia e sul sito atenesipercaso.com trovate molte altre indicazioni e curiosità per itinerari fuori dagli schemi. Alcune cose che io stessa vorrei aggiungere su Atene. Io mi sono sempre mossa da sola, anche di sera. La città è una città tranquilla, ovviamente bisogna avere le attenzioni del caso come in qualsiasi altra città. Oltre alla placa, di cui avete sentito anche nella nostra chiacchierata con Letizia, che è un quartiere centralissimo, pieno di locali, occhio però alle trappole per turisti, Exarchia è il quartiere una volta bollato come anarchico. Anche qui troverete molti locali, diciamo così, un po' più alternative. Troverete anche molti murales che sono stati dipinti nel corso di questi anni, un po' come risposta artistica alla crisi. La metro di Atene è molto bella, molto funzionale, con i tassisti al di là delle tratte più lunghe, al termine delle quali comunque vi faranno sempre la ricevuta, potete anche contrattare, e mi è capitato più volte che i tassisti mi dessero il loro biglietto per richiamarli quando ne avessi avuto bisogno e poi accordarci anche sul prezzo. Valeria, però devo farti qualche domanda. È una capitale costosa? Perché sai che in queste vacanze, insomma, noi non perdiamo mai la voglia di viaggiare e la voglia di vedere posti nuovi, però ecco, insomma, controllare un po'. Certo, ci vuole un occhio al prezzo. Allora, Atene di per sé non è una città costosa, ovviamente anche qui, come dicevo prima, occhio alle trappole per turisti, perché alla placa ce ne sono e insomma anche lì si può accadere molto facilmente. La città di per sé appunto non è assolutamente costosa, diversamente le isole greche che anche nel corso di questa crisi non hanno invece abbassato i prezzi. Vale, e se avessi a disposizione qualche giorno in più? Qualche giorno in più si può affittare una macchina oppure organizzarsi con i mezzi di trasporto locali e andare a vedere la costa, sia verso nord che verso sud rispetto ad Atene. È una costa bellissima, ha una strada meravigliosa proprio a picco sul mare, ne vale la pena. Nella seconda parte, Valeria, allora sarò io a portarti a Matera, perché già lo avete sentito nei titoli, quindi non sto anticipando nulla, così come avete sentito nei titoli che abbiamo anche una rubrica a chilometro zero, che significa che se siete in città, se per qualche motivo non siete riusciti ad organizzare una vacanza, guardate che vicino alla vostra città ci sono tanti luoghi bellissimi. Chilometro zero. Per esempio, se vi trovate a Napoli o nel napoletano, cara Valeria, c'è la possibilità di andare a visitare Castellammare di Stabia, che si trova a 38 chilometri da Napoli. Era l'antica Stabia, una delle località prescelte dall'aristocrazia romana per i soggiorni sul Golfo di Napoli al seguito degli imperatori, che poi sceglievano Capri e i campi flegrei come dimore abituali. È un posto bellissimo, ovviamente il corso degli anni lo ha modificato e questo insomma è una delle problematiche di tutta quella zona lì che tu conosci. Sì, però bisogna dire che il mare è sempre bellissimo. Il mare è meraviglioso, però in genere a Castellammare ci si passa per andare nella costiera sorrentina. Invece secondo me è uno di quei posti che merita una visita particolare, perché ci sono degli scavi meravigliosi, perché si mangia benissimo e perché c'è un mare, come dicevi, particolarmente bello ed importante. C'è tutta la zona centrale, per esempio, ti consiglio per visitare la città di iniziare dalla piazza principale, che è Piazza Principe Umberto, conosciuta anche come Piazza Monumento, che si apre sulla villa comunale, che poi costeggia il lungomare, che è particolarmente bello. Anarita, parlavi degli scavi, perché da Castellammare è poi semplice spostarsi e andare a vedere sia gli scavi di Pompei che gli scavi di Ercolano, che forse non sono così conosciuti ma sono altrettanto belli e sono conservati tra l'altro benissimo. Gli scavi di Ercolano sono molto più piccoli di quelli di Pompei, però sono sicuramente una delle mete di tutti i turisti, come vi ripeto, Castellammare di Stabia, 38 chilometri da Napoli. Poi prima visitate Castellammare e poi andate anche sulla costiera sorrentina, che ovviamente è lo spettacolo che tutti sappiamo. E adesso una breve pausa, Valeria, poi restiamo ancora in Italia. Dove nasce tutto il cibo del mondo? Da dove arriva il pomodoro? Chi sostiene la terra? Le domande dei bambini, le risposte degli scienziati. Da cibo a evoluzione, da spreco a sostenibilità. Le grandi parole di Expo raccontate ai più piccoli. Telmo, sei sicuro? Riusciremo a spiegare anche parole tipo biodiversità? Certo Federico, è la diversità degli animali e delle piante. E ci sono un sacco di sorprese. Tu per esempio sapevi di essere parente della banana? No, però vabbè, se lo dice un filosofo della scienza mi sa che ci devo credere. Vi aspettiamo ogni ogni domenica alle 9 con interviste, esperimenti, storie, filastrocche e tante curiosità. Con Telmo Pievani e Federico Taddia, Terra in vista, l'Expo come non l'avete mai visto. Globetrotter 24. Assomiglia alla Taranta tantissimo, ma è musica lucana, folk lucano, insomma la Basilicata e la Puglia non sono lontane, forse anche per questo che la musica ne ha risentito. Ti voglio portare in Basilicata, che è una regione a cui sono molto legata e che amo tantissimo. Mia madre era lucana, quindi io ho sangue lucano. È una regione bella ma poco battuta dal turismo, e questo ha degli aspetti positivi ma secondo me anche degli aspetti negativi. La città però nella quale ti voglio portare è la più conosciuta senz'altro della Basilicata, se ne sta parlando tantissimo perché sarà capitale della cultura nel 2019, ha delle bellezze che ci riconosce il mondo intero. Ti voglio portare a Matera. E per raccontarti di Matera abbiamo in collegamento Leonardo Montemurro, presidente della CNA, la Confederazione dell'Artigianato della Piccola e Media Impresa della provincia di Matera. Porta d'ingresso del turismo in una regione come la Basilicata, che ha tanto da offrire ma che fino a questo momento è rimasta un po' ai margini. Ti sei fatto un'idea del perché? Ma in realtà in tutti questi anni abbiamo scontato dei ritardi, molti addebitabili a noi, ma anche, io dico, in parte alla sfortuna. Per esempio mi riferisco al fatto che sono stati investiti 500 miliardi di vecchie lire per creare un collegamento tra Matera e Ferrandina. Ferrandina è sulla tratta Taranto-Napoli, per capirci, Taranto-Potenza-Napoli, e questi lavori poi purtroppo per vicissitudini dell'impresa non sono stati portati a termine. È Leonardo, ci riferiamo all'annosa questione oramai nota della ferrovia, però ci sono dei modi per arrivare, cioè l'aeroporto non è lontano. Assolutamente sì, perché per esempio io vedo anche la reazione dei miei colleghi della CNA nazionale o di altre regioni d'Italia quando gli dico che noi siamo a 45 minuti dall'aeroporto di Bari, quindi in un range temporale assolutamente in stile europeo. Quindi in 45 minuti noi comunque raggiungiamo Bari, che ormai offre una serie di destinazioni, insomma, soprattutto per quanto riguarda l'Europa, di insomma primaria importanza. Tu sei presidente della CNA, il tessuto economico ha giovato moltissimo di questa esplosione, diciamo, del turismo, e ancor di più lo sarà in prospettiva del 2019. Assolutamente sì, però è una sfida, come dire, che in prima battuta fa tremare i polsi, nel senso che noi parliamo di una città come Matera che oggi conta su 200.000 visitatori, naturalmente non siamo intorno alle 50-60.000 presenze negli alberghi su base annua, parliamo di numeri che veramente fanno paura nel momento in cui si stima che arriveranno qui nel 2019, ma io dico già negli anni immediatamente precedenti, da 800.000 a 1.200.000 persone. Quindi parliamo di numeri impressionanti, e quindi è chiaro che la città, il sistema città deve essere pronto ad accogliere queste persone. E tra l'altro io dico non solo Matera città, ma anche l'intero comprensorio, oltre che i paesi della provincia a noi più vicini, mi riferisco anche alle vicine città pugliesi, Altamura, Gravina, Santeramo, che già oggi in alcuni periodi in cui a Matera diventa impossibile trovare non solo da dormire ma addirittura anche un posto in cui pranzare, i turisti sono costretti, diciamo, a spostarsi nelle città vicine. Che tipo di turista c'è oggi a Matera e che tipo di turista vi aspettate? Allora, noi oggi abbiamo due tipi di turisti, chiaramente. Ci sono quelli che vengono per una sola giornata e quindi le gite, che per quanto importanti iniziano anche a costituire un problema, così come è accaduto in tante altre città d'Italia che prima di noi hanno, come dire, vissuto fenomeni di questo tipo. E poi abbiamo anche il turista, come dire, attento, il turista culturale, il turista attento che non viene qui solo per visitare i Sassi, ma chiede anche di guardare i musei, chiede di guardare le situazioni in cui sono stati ricreati ambienti della vita contadina di Matera degli anni che furono. Qual è secondo te il periodo migliore, c'è un periodo migliore per visitare Matera? Oggi come oggi io credo che il periodo migliore è primavera inoltrata, prima che maggio-giugno, diciamo così, è il periodo migliore perché non fa ancora troppo caldo, perché qui ricordo che comunque insomma le estati sono abbastanza torride, quindi abbiamo comunque a volte insomma climi molto sotto l'aspetto appunto della temperatura che si raggiunge, insomma, molto molto elevata. Volevo farti un'ultima domanda. Noi abbiamo una particolarità nel programma. Ci interessiamo del turismo delle famiglie, sì, del turismo di chi viaggia con animali, che non è da sottovalutare, perché spesso chi non ha dei figli ha un animale da portare con sé. Io sono uno di quelli. Perfetto. Ho un labrador di 8 anni e quindi ogni volta che mi muovo vado alla ricerca di strutture che comunque accettino. Allora sei la persona perfetta di viaggio per rispondere a queste domande. Cioè, a Matera che accoglienza trovano le famiglie con bambini, chi viaggia con animali e chi non ha molta disponibilità economica? Questi sono tre target a cui ci riferiamo. Allora, partendo dall'ultimo aspetto, ormai ci sono strutture, abbiamo anche un ostello, quindi che 40 posti, proprio in previsione di Matera 2019, l'Associazione Nazionale degli Ostelli per la Gioventù sta mettendo in piedi, in collaborazione con CNA per quanto riguarda questo territorio, un progetto programma di ampliamento dei posti letto. Quindi ci si sta ponendo questo problema. Però abbiamo ormai un numero anche importante di B&B dove è possibile dormire anche con tariffe insomma nell'ordine di 40-50 euro, forse anche qualche cosina in meno a persona, come pure poi abbiamo una fascia intermedia e abbiamo anche alberghi dove per dormire insomma 5 stelle, 4 stelle, 5 stelle, dove comunque insomma il costo è sicuramente insomma in linea con quello che si paga in una qualsiasi altra città d'arte. Sull'aspetto animali ormai sono abbastanza, probabilmente non ancora in numero sufficiente, le strutture che accettano animali, soprattutto quelli di piccola taglia, oserei dire che sono accettati ormai un po' ovunque. Si pone sempre il problema un po' per i cani, insomma non quelli small, ma quelli un po' più grandi, però credo che in linea anche qui con quello che accade in altre città italiane e europee, credo che il processo di adeguamento, anche perché è un segmento molto molto importante, perché io stesso mi rendo conto viaggiando che in realtà vengono fuori poi numeri anche importanti da chi viaggia in compagnia di animali. Quindi credo che la città saprà insomma adeguarsi e modulare la propria offerta a seconda un po' del tipo di visitatori. Famiglie con bambini io ne vedo tante in giro, quindi significa che comunque abbiamo un ambiente non ostile ma anzi insomma accogliente anche sotto questo aspetto. Tu sei stata a Matera? Sono stata a Matera ben due volte, perché la prima non mi è bastata e sono tornata anche con le amiche, oltre che esserci andata con il mio compagno, e devo dire che è sempre uno spettacolo arrivare a Matera, vederla, guardarla dall'alto, cercare anche di capire dove vanno le strade, perché Matera è un po' intricata ed è anche questo il suo bello. Quindi io ti ho raccontato Matera, tu già la conoscevi, noi la consigliamo sicuramente a tutti. Anche perché a Matera si mangia benissimo, questo è un aspetto importante, come dicevamo, nei viaggi, negli spostamenti. A Matera si mangia davvero bene, e se vi posso consigliare un posto, non tanto per la cena ma per uno spuntino veloce a pranzo, vi cito un posto che mi è rimasto nel cuore, che si chiama Pancotto, e dove ho mangiato le melanzane sott'olio più buone della mia vita. buone, mi fai venire fame. Valeria, noi diamo tanti consigli, lo abbiamo detto, i nostri ascoltatori l'avranno notato in questa prima puntata, noi vi diamo consigli se viaggiate da soli, se viaggiate con bambini, se viaggiate con animali, se avete poche disponibilità economiche, e poi vi segnaliamo delle mete a chilometro zero. Chilometro zero. Certo, Anarita, anche perché se uno appunto non ha la possibilità di prendersi un weekend lungo, se uno non ha la possibilità di fare le ferie durante l'estate, ma ha comunque voglia di prendersi almeno 7-8 ore di libertà, è possibile raggiungere anche in tempi brevissimi delle mete che, proprio perché sono le più vicine, magari sono le più sconosciute. Questa volta vi voglio indicare, per chi abita a Milano o Pavia o comunque in quella parte della Lombardia più ovest, vi proponiamo l'Oasi di Sant'Alessio. Si tratta di un parco naturalistico, si paga l'ingresso, che non è proprio a buon mercato, ma comunque ne vale la pena perché il percorso è articolato, anzi i percorsi, perché sono tre, si impiega un bel po' di tempo per attraversarli e quindi i bambini, se li portate con voi, alla fine saranno esausti, e poi al termine ci sono le aree picnic. Insomma, morale della favola, Annarita, indicazioni stradali molto semplici se arrivate da Milano, ancora di più da Pavia, in generale dall'autostrada Piacenza-Torino, indicazioni molto molto semplici. Informatevi prima di andare perché il parco organizza anche eventi e manifestazioni particolari, quindi potrebbe essere più interessante andare in una data piuttosto che in un'altra. Io non ci sono mai stata, Valeria, allora... Vale la pena, ti devo dire che vale la pena. L'ingresso per gli adulti, se non sbaglio, è 13 euro, per i bambini 10. Che non è poco, però ecco, è da vedere come dici tu. L'appuntamento si sta per concludere, Valeria. Abbiamo dei doverosi ringraziamenti da fare a chi ci ha accompagnato dietro il vetro, ma quelli li lascio a te perché è stato di una pazienza, tra l'altro, dobbiamo dirlo. Torneremo la prossima settimana, sempre con una destinazione italiana e con una destinazione straniera. E poi, senza dimenticare il nostro chilometro zero, a nord, a sud, al centro, dipenderà di volta in volta da quello che sceglieremo, per cui mete più vicine. E poi i nostri consigli per chi viaggia con la famiglia, i nostri consigli per chi viaggia con gli animali, insomma ci distinguiamo per questo. Cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile, però se avete dei suggerimenti da fare, globetrotter24@radio24.it, e poi il ringraziamento a Carmelo Lauricella al di là del vetro perché ci ha accompagnato in tutta questa mezz'ora con molta pazienza. Grazie a Carmelo, grazie a voi per l'ascolto, alla prossima settimana, Valeria. Alla prossima settimana.